trovare il difetto, già sono arrivato a un punto dove c'è se ti utilizzo un po' di componenti, però io non riesco a capire i valori perché anche nel manuale service non c'è qualcosa che non mi quadra. Devo sostituire le componenti e qui vedere. Ma hai già trovato il danno? Qualcosa sì, ma molte volte, ma quando entra una scarica del genere non è che fai una cosa già solo, vedi, fai più danni, capito? Fai più danni. Adesso ho trovato alcune cose, le ho già trovate, delle cose interrotte, proprio vicino all'ingresso della scheda RF, ancora le ho trovate, già quelle buone. Adesso bisogna sostituire lì e poi ritestare, capito? E poi ritestare a farlo piano piano e poi vedere, andare sul primo transistor FET che c'è lì e vedere se quello è danneggiato o no, e poi vedere un attimo piano piano già, perché tanto lì è arrivata una scarica lì e poco da fare c'è, e quindi controllando, solo che non riesco a capire il valore di un paio di componenti, perché non c'è uno schema così dettagliato di tutta la scheda, capito, come potrebbe essere il 440, non so se c'è qualche altro manual service, qualcosa in giro, però adesso vedo un po'. Io vi ho una resistenza lo stesso a cambiare della commutazione delle valvole di quell'amplificatore. Tu non ce l'hai, no? Una resistenza da 1,5, non ne hai, no? Quelle verde, cos'è? Marrone, verde, rossa. E così ve lo dice lì, ho fatto io la verità, ma quelle non so, magari quelle sono almeno da mezzo, fatto un vatto, non ce la fatto solo io la verità. Avevo fatto uno stock, avevo comprato tempo fa, e dovrei avere, a cambiare tutti in questa azione, dovrei avere delle, proprio una scatola di resistenze, che non so che servono, e c'è un garage, bisogna cambiare la porta, se no qualche 5-6-10.000 resistenze, con cui con vari valori, non so cosa, più piccole, se magari, però alla fine quando ti serve quel valore magari non ce l'hai, non lo so, c'è un po' di resistenza, le devo portare qua, però quelle che c'è tu sono, credo che siano resistenze almeno a un metro watt, non penso di meno, a un metro, credo un watt, può essere 2 watt, non lo so, bisognerebbe guardare quanti watt sono. Può essere la 1,5, 1,5, comunque adesso l'ho staccata e poi vediamo nella GBC se ce la faccio stasera, già non mi ho fretta. Ascolta Fabri, come esce questo baracchino, sto Galaxy? Bene, molto bene, molto bene. Ci sono i colori delle resistenze? Certo che sì, ce l'ho qua. Ci vedo un Kaiser, te lo dico subito, allora, è marrone, verde, rosso e dorato, c'è una striscia dorata. E allora c'è la percentuale, bisogna vedere la percentuale, capito? Ah, mi ha detto, dice che non si vede, ha detto marrone, poi è marrone, verde, rosso e poi c'è la striscia dorata alla fine. Quindi marrone, verde e rosso, allora, quindi quelli che hanno il moltiplicatore, allora da 1,5 kOhm, quella resistenza da 1,5 kOhm, quindi è 5% di tolleranza, se color oro, perché color argento quant'era? No, color argento è il 10% la tolleranza, quindi se 5% di tolleranza, quindi un po' più precisina. Ecco, è una resistenza da 1,5 ohm, se è marrone verde e rosso, mi hai detto? Mi piacciono tantissimo gli affini. marrone verde rosso, vedo niente, marrone verde rosso, sì. Eia, marrone verde rosso, e poi c'è la striscia, boh, sembra dorata, non la vedo neanche con gli occhiali. Capito? Sì, da 1,5, l'ho già misurato col tessere, 1,5 sono, ce n'è 4, 2 più 2. Una è bruciata, però le cambia tutte e 4. Ma guarda che dipende da quanti fatti sono, però quello lo dovresti dare da uno schermo, da qualcosa. Guarda, sono molto grosse, piccoline, come sono? Se poco sono grosse, ma io metto che sono quelle dell'alimentazione di commutazione per il relè, capito? Allora ci vogliono quelle cose, anche grandi, però quelle cose hanno 2, 3, 4, 5, non so neanche da quanto sono, poi io non ne so, così non te lo so dire, però comunque la resistenza è il valore di 1,5 kilo ohm, non un kilo ohm, quello è il valore di quella resistenza, poi magari se gli porti la vecchia così si riesce a risalire a quanti watt sono, lo vengo da, comunque qualcosa di grosso prendi male non gli fa, tanto costeranno 10 centesimi, tutte con 10 centesimi l'una. Sì, ma infatti la smotto Fabri, poi non ho frettato, l'ho detto, l'ho tutto pulito, ho revisionato il motorino della ventola che era rumoroso, fatto tutte le cose, quella è l'ultima cosa, pulito bene le valvole con la tridina e le ho messe da una parte, quindi non ce n'è problema, quando magari hai 2 minuti ti avvicini qua, mi tiro quel baracchino, lo vedi un po' anche tu, non è un problema. Beh, ma stanotte a lavoro? Aspetta, c'ho il PTT. Sì, stanotte a lavoro. Però la prossima cosa che faccio qua, mi faccio il pedale, cazzo, ci vuole il pedale inutile. Però lavorando bene male. Comunque se il microfono è amplificato non hai problemi, se ti sposti un pochettino, se ti ascoltano sempre, però anche il pedale ci vuole. Sì, qua ci credo che c'è un paio, dovrebbe essere resistente 3CMD quella tecnologia, però non riesco a vedere il valore. Cazzo, dallo schema non ci si riesca ad arrivare. Cazzino, Il pedale ce l'hai, mi Fabri, se passi te lo do, c'è già il jack attaccato. Capito? C'è da cambiare le commutazioni, c'è il cavo anche abbastanza lungo. Molto lungo. Ce l'ho io il pedale, ce l'ho voi, non c'è problema, proprio mi pare sia è stato fatto per il keyboard, c'è il jack mi pare deve cambiare, però ce l'ho voi, bello anche, bello, capito? Te lo do e così te lo fai, visto che tu sei sempre lì in mezzo ai lavori. No, ma infatti no, ci vuole un pedale di batteria, mia, poi ci vuole un jack, entri, esci, a quanto ho capito, maschio o femmina, quindi 2 figli, si sono a collegare solo a 2 figli, dovrebbero essere, per andare in trasmissione, problemi non c'è, devo andare a poco di quasi un cifre, vedere, e oggi quasi, spero, se ne voglio affittare, ma c'è il bambino, non sono così giovane, vale, lo prendo, infatti se riuscisse a finire quelle 2 cose, fanculo, cazzo, avrei già risolto un problema. Sì, grazie, attento, questo è vuoto, dopo pensandoci bene, io ero convinto che era più debole qua l'antenna, perché c'è un'antenna che non è cortocircuitata, invece qui pensandoci bene, l'antenna è cortocircuitata, perché io ho costruito un balum, un trasformatore di impedenza, c'ha lì sotto l'antenna, quindi ce l'ha, non è, può essere come una 58 alla fine cortocircuitata anche lì, quindi stranissimo che mi credi sia entrata abbastanza di sberla per superare tutta la catena. Ma stai scherzando lì, Fabri, quando entrami, no, non c'è niente da fare, no? Mi piacerà che cambio le lampadine di questo lineare, tanto sono senza far niente. Fabri, quando entra lì, no. Non ti preoccupare che la cosa non è così semplice, capito? Quando entra lì purtroppo prende il colpo e basta. Però in compenso non credo che sia andato così, un motore l'hanno fatto perché. Ancora non lo so, ma credo no, perché la cosa nuova è che funziona tutta completamente la radio, in trasmissione non ha nessun problema, comunicazioni, il tutto funziona, escludo il ricevitore, quindi non ha problemi. E lui paga con la guapre. Quando vedi che non funziona la mia trasmissione, a quel punto è entrato il fulmine e ha fatto un bel danno. Invece quando il resto funziona, trasmette, va bene, ma solo che ci sia sorda proprio, non riceve niente, è meno problematico, è un problema, quindi è entrato da qualche parte. Ma quello che lei praticamente il circuito fa entra, c'ha una pullina, uno scaricatore di tensione, che l'ho controllato, è 300 volt, quindi non è poco. Quindi dovrebbe scaricare sempre lì, l'ha passato, quello vuol dire arrivata in tensione ancora più, l'ha passato ed è arrivata la scheda FF e lì ha iniziato a fare danno. Ma infatti dopo ho misurato un paio di cose che ho già trovato lì proprio sulla catena. Poi ti ripeto, adesso un altro paio di giorni ho scritto, mi serve venuto un oscilloscopio, mi serve perché sono pronto almeno un 100 MHz. E via, almeno ce l'ho, perché c'è un po' di attrezzature, manca quello per seguirlo, non lo prendiamo, vabbè. E dai, è un casino, è stato quando deve succedere, succede, che hai finito in accesa e alla radio, ancora mi dispiace, vabbè, già una fesseria, spero che sia una fesseria, spero che sia una fesseria. Iniziare tra l'altro qua, man mano che trovi, lì c'è l'ingresso, praticamente lui esce dalla radio e si trova una schedina dove fa un relè di commutazione, lo scaricatore e poi uno guarda i filtri, scheda filtri per poi filare per la trasmissione e poi l'altro va per la ricezione, quando commuta va sulla scheda RF. E proprio già all'ingresso della scheda RF già qualche resistenza ce l'ha fatta partire, quindi la sostituire lì e poi vedere più avanti se c'è qualcosa, capito, seguire. Oh, sembrerebbe a occhio così, buttino un po'. Poi dopo vedere se ho mandato un segnale dentro seguendo se si interrompe. Al momento proviamo a cambiare questo, a capire cosa sono questi componenti, poi vediamo queste due resistenze, il valore A. Se no riesco a risalire a sei andato? Direttamente in questura. Vabbè, lì c'è l'ufficio della polizia postale anche. E lì in questura ufficio denunce. Vabbè, quella la passano alla postale intanto. Sicuramente la passano alla postale, sono loro che se ne occupano. Ho messo tutto quello che avevamo fatto, tutti gli acquisti, porta paletta. Infatti stamattina dici tu, quella cosa che non mi quadra, non c'è una cosa che non qua. Se non lo messo la carta, messo il culo, dice, o tu io e ce l'avevo dentro, ma se non ho fatto nessun acquisto, ho detto. Mi sono fatto fare tutto il resoconto con tutte le spese che ho fatto. E sono uscito queste spese qua. Ma rimedio, vabbè. Per carità. Sempre in bova, via. Sempre così è. Vabbè, speriamo che recuperi. Niente, io non fa, mi sono levato al lavoro. Mi ha detto, ma cazzo, una volta rendimi su una radio. Io non sono abituato ad arrendermi così facilmente. Le ho attaccato la rettazione, c'erano tutti questi numeri, tutto questo menu. Ho tenuto premuto per qualche secondo programma, ho visto iniziato a lampeggiare tutto, a uscire, a lampeggiare, ho schiacciato enter ed è rientrata la memoria delle frequenze. Vabbè, ma adesso rimane quello, tranquillo? Sì, perfetto, 27.085.00, perfetta, no, non c'è problema, i watt sono a posto. Tutto ok, speriamo che non si vari a dorare fumo. C'è bene, allora. Va bene, già va bene. Sì, come portarne? Adesso manteniamo il nome salito al posto della lampada posto, quindi figurati. Così la facciamo andare, dai. La facciamo andare. Fabri, vai per Luca. No, Fabrizio al telefono. Oh, io Cristina. Vabbè. E cosa vuoi va? Vedete, non mi ha accorto. Ha fatto, santo, quando c'ero di saldo, no? E mi sono accorto che mancavano soldi. Ho mandato un messaggio. messaggio, te l'ha detto in radio, ti ho detto scrivimi in quale frequenza devo andare, ti ho detto, e tu non me l'hai scritto però. Io non ero a casa, come facciamo a risponderti in radio, scusa? Io ero convinto che tu eri in radio e che non volevi entrare, che quindi mi hai mandato un messaggio, capito? Non ci siamo capiti, dai. Stasera la proviamo, ok? Vabbè, intanto la colpa non è la tua, è di tua moglie.